delle verità di fede, di tutte le verità di fede su cui si fonda la nostra attesa della vita, del mondo che verrà e di quello che ci attende. Fede divina e cattolica, perché insomma, qui non stiamo parlando di opinioni, no? Vedremo che adesso, questa sera che introduciamo il giudizio particolare, cominceranno ad essere tirate fuori un po' di armi di artiglieria pesante, insomma, quindi non soltanto la Sacra Scrittura, che certamente era è la bomba atomica più grande che esista, ma anche fonti provenienti dal Danziger, quindi dalle dichiarazioni vincolanti susseguitesi nel corso della storia da parte di papi o concili, quindi magisterialmente significative. Quindi ci aspetta questo cammino ed è molto importante farlo bene perché, come sempre, credo che ormai sappiate, la formazione dottrinale, specialmente in questi tempi, è assolutamente importante, basilare, oserei dire imprescindibile. Allora, ci introduciamo al tema del giudizio particolare. Ora, il Nuovo Testamento, questo lo possiamo dire come prima battuta, prevalentemente sembrerebbe parlare del giudizio universale. Noto, per esempio, è noto il caso famoso del Vangelo di San Matteo, quindi tutti conoscono, ricorderanno il capitolo 25, il giudizio universale, le pecore a destra, i capri a sinistra, Gesù dice alle pecore venite benedette dal Padre mio e ai capri, ad me maledetti nel fuoco eterno, no? Tutte quante le nazioni radunate dinanzi al figlio dell'uomo, il giudice del mondo e della storia, e quindi poi la duplice destinazione delle anime. Però, ecco, ci sono anche degli evidenti riferimenti al giudizio particolare, sia nei Vangeli che nelle lettere di San Paolo e nelle altre lettere apostoliche anche. Ovviamente, come sempre, è corretto è doveroso partire anzitutto appunto dai dati biblici neotestamentari. Ne vedremo alcuni, ma abbastanza eloquenti e poco facilmente equivocabili. Cominciamo dal Vangelo. Un Vangelo che abbiamo sentito, peraltro, voi siete tutti bravi ovviamente nella messa tutte le domeniche, non molte domeniche fa durante la liturgia, no? Un mendicante, siamo nel Vangelo di Luca, capitolo 16, versetto 20, di nome Lazzaro, giaceva alla porta del ricco, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Ovviamente riprenderemo questo brano quando parleremo dell'inferno. Ora ci interessa sapere però che, stante la narrazione di Gesù, il povero muore e viene portato nel seno di Abramo. Attenzione che il povero non stava in paradiso, perché Gesù ancora non era morto, sepolto e risorto dalla morte e discesa agli inferi, ma stava nel seno di Abramo, in quello che la tradizione ha chiamato il limbo dei santi padri. Certo stava molto meglio di Lazzaro, perché nel limbo dei santi padri e anche nel limbo non dei santi padri, ma nel limbo in generale, come vedremo, che a differenza del già detto del purgatorio, inferno e paradiso non è dogma di fede, ma un tempo dottrina comune. Si sta molto meglio rispetto all'inferno, evidentemente. Quindi è vero che non c'è la visione beatifica, ma come insegna San Tommaso, si gode anzitutto dell'assenza di ogni dolore e poi di una felicità naturale che già in un primo momento, insomma, un pochino appagano. Quindi per questo che c'è questo dialogo. Quello stava nei tormenti, stava nell'inferno dei dannati, mentre invece il povero stava nel seno di Abramo, quindi nel limbo dei santi padri, in attesa di poter accedere al paradiso per la redenzione operata da Cristo. Ma questo è un giorno morì il povero, quindi questa è una situazione che accade immediatamente dopo la morte. E quindi attraverso questo Vangelo comprendiamo che subito dopo la morte c'è una diversificazione delle destinazioni delle anime, che dipende da come sono vissute e da come sono morte. Altro brano significativo del Vangelo secondo Luca, molto significativo, è il celebre episodio del buon ladrone. Tutti lo conoscono, se Gesù sta in croce in mezzo a due malfattori, uno gliene dice un sacco e una sporta, dice ma come, tu sei il Cristo, facci scendere, e quell'altro lo rimproverano, prima dice guarda che a noi ci sta bene che stiamo qui, questo invece non ha fatto niente di male, e poi aggiunge, Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, gli rispose in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. È chiaro che se oggi il ladrone sta con Gesù in paradiso, primo santo canonizzato, nostro Signore se l'è riservato per sé, no? Non per le virtù eroiche, ecco, ma per il pentimento perfetto. Questo condannato a morte, cioè essere condannati a morte con nostro Signore, cioè, certamente lui era un malfattore, era un criminale. Però, insomma, diciamo che al buon ladrone gli è andata di lusso, insomma, che meglio di così non ci poteva andare. Gli sarebbe andata bene di lusso pure al cattivo ladrone. Il problema è che il cattivo ladrone non ha colto quella chance. Qui c'è sempre lo sfondo, sempre molto inquietante della nostra libertà. Anche a Giuda Scariota era andata di lusso, ma purtroppo sappiamo bene alla fine che ha fatto. Quindi il fatto che Gesù dice oggi entrerai con me in paradiso, se oggi entra con me in paradiso, vuol dire che immediatamente dopo la morte c'è una diversificazione della sorte delle anime, questo è evidente. Passiamo adesso all'epistolario paolino, cominciando dalla seconda lettera ai Corinzi, che è il versetto 4, in particolare 14. Cominciamo a leggere dal 13. Dice allora, nel capitolo, cominciamo a leggere, che è meglio. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, però perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi perché la grazia è ancora più abbondante verrà per opera di un maggior numero, moltiplichi di non di lode la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, attenzione, questa è una delle letture che si legge ai funerali, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Attenzione, sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo nostro corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo nei cieli. Chiaro che qui il Signore San Paolo sta facendo riferimento al giudizio particolare. Un pochino più avanti, sempre nella stessa lettera, sempre capitolo 5, il versetto 8, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Tutti dobbiamo comparire, versetto 10, davanti al tribunale di Cristo, questa è proprio l'attestazione esplicita del giudizio particolare. Ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Qui in questo versetto c'è proprio praticamente, potremmo quasi quasi già interrompere la catechesi. Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Tutti, eh? Non c'è pantas in greco, eh? Quindi è necessario, dei, che tutti. Tus pantas e mas, tutti noi, phanerothenai, quindi dobbiamo comparire, dobbiamo apparire, in prosen, davanti, Tubematos, questo è proprio, come dire, il posto del giudice, quindi davanti alla sedia del giudice sarebbe letteralmente, no? Quindi, cioè, il tribunale di Cristo. Per ricevere la ricompensa, ina comisetai ekastos, tadiatu somatos, pros a epraxen, eite agaton, eite aforon. Attenzione, per ricevere ciascuno, secondo quello che ha fatto. Comisetai proprio è, allora, comisetai è un ricevere indietro. Quindi, quello che hai fatto ti torna indietro. Questo è proprio è proprio la retribuzione in senso stretto, è la giustizia in senso stretto. Il giudizio serve ad applicare la giustizia. E qui bisogna subito schiarirsi un pochino di idee, perché la giustizia, attenzione, di Dio è rigorosissima. Rigorosissima. E oggi la questione della giustizia divina viene, come dire, complicata da una predicazione a volte veramente inaccettabile e confusionaria sul più bello e più grande attributo e più importante di Dio, perché senza quello chiudiamo tutte quante le baracche, perché nessuno di noi ha nessuna speranza, che è la misericordia. Numero uno, cominciando a capire bene il discorso sulla misericordia. La misericordia scende su di noi, questo non dimentichiamolo mai, perché la giustizia di Dio, come spiega San Paolo, si è compiuta in Cristo, cioè perché i peccati di tutti li ha portati sulle spalle e li ha pagati fino all'ultimo spicciolo. Nostro Signore Gesù Cristo, con una passione ed una morte orrende. Non dimentichiamolo mai. Se uno legge l'opera esemplare, anche se non certo alla portata di tutti, di Sant'Anselmo d'Aosta, che è il Cur Deus Homo, lo spiega benissimo, lo spiega. Misericordia, misericordia, misericordia. È certo. Tutti i peccati che ho fatto io, tutti i peccati che ho fatto io, li ha scontati il nostro Signore. Attenzione, perché io potessi avere misericordia, non perché anche io poi non li abbia scontati, attenzione, perché arrivi la misericordia. Chi conosce la divina volontà è un pochino aiutato nella comprensione di questi concetti, perché la divina volontà, negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, tante volte ricorre questo concetto, si dice che in Dio tutto deve essere continuamente riequilibrato, non ci potrebbe mai essere la misericordia. Cioè, tutto quanto la montagna di male prodotto dal peccato, le offese infinite a Dio, in continuazione posta in essere dal peccato dell'uomo, da quando è stato commesso il peccato originale in poi, ma non possono rimanere così. Cioè, è ovvio questo qua. Ecco perché non soltanto i 3 giorni della passione, ma tutta la vita di Gesù è stata spesa a questo fine. Anche qui, anche chi conosce gli scritti della serva di Dio, lui, Luisa Piccarreta, in 33 anni Nostro Signore ha rifatto gli atti e la vita di tutti gli esseri umani che ci siano già. Cioè non esiste nessuna vita di un essere umano che non abbia, come dire, per capirci, una copia autentica, perfettissima, realizzata da nostro Signore Gesù Cristo. È così, eh. Un'anima può finire dannata. Ma un'anima che finisce dannata nega a Dio la gloria soggettiva, la gloria estrinseca. Ma questa non è una cosa possibile, questa qui. Perché sarebbe come dire che Dio ha fatto una cosa che poi andrà perduta, andrà sprecata. Dio non fa mai queste cose qui. E quindi chi ha dato gloria a Dio per quella vita sprecata c'è stato, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Poi c'è stata la Madonna, e poi per chi conosce la divina volontà, anche coloro che vivono nella divina volontà possono partecipare e fare qualcosa di molto simile, analogo a queste operazioni. Oh, questa è la misericordia. Ma attenzione, la misericordia non cancella le esigenze della giustizia. Cioè, che cosa significa? Significa che se io... Allora, la misericordia funziona così. La misericordia evidentemente rimette i peccati mortali. Quindi che cosa significa? Cancella non il fatto, ma l'offesa a Dio, quindi Dio rimette questa sua offesa ricevuta dalla prevaricazione di una creatura, gli restituisce la grazia perduta e, qualora muore, la possibilità di accedere alla gloria. Ok? Ma come terminano le nostre confessioni? Per penitenza fai questo, cioè il male che tu hai fatto, è vero che il nostro Signore l'ha già tutto quanto pagato e riparato, è vero. Ma, come ha sempre insegnato la Chiesa, questa riparazione perfettissima che il nostro Signore ha fatto di tutto ci viene applicata a noi mortali una volta sola. Gesù Cristo è morto una volta sola per tutte? Bene, i meriti integrali, infiniti della sua passione, quindi puliscono tutto, sia le colpe che le pene per giustizia dovute alle colpe commesse, ci viene applicata una volta sola. Quando? Nel battesimo. Mo vengono battezzati i bambini e quindi il bambino viene fatta piazza pulita, fondamentalmente soltanto delle pene dovute al peccato originale. Ma se venisse battezzato un adulto, se un adulto chiede il sacramento del battesimo, non deve confessarsi. Perché? Perché il battesimo è appunto amministrato per la remissione dei peccati. E insieme però ai peccati, il battesimo rimette anche tutte le pene dovute per i peccati. Il sacramento della penitenza, no. Ecco perché il sacramento della penitenza, l'ho detto tante volte, termina con per penitenza fai questo. Molti fedeli continuano a dire che ci sono confessori che non danno la penitenza. Ora, certamente per le confessioni leggere di devozione, ora, nell'attuale disciplina della Chiesa la penitenza sacramentale ha di fatto assunto un carattere prevalentemente simbolico, anche perché non c'è nessuna possibilità di agire diversamente, perché nell'attuale coscienza ecclesiale già è miracolo se qualcuno si va a confessare. Pensiamo se si possa, se entra nel contesto ecclesiale, si possono dare le penitenze che venivano date negli anni intorno all'anno 1000, ma non lo farebbe nessuno, ma partirebbero le denunce penali per i preti e sicuramente le denunce ai vescovi, 100%, senza dubbio. E sarebbero severamente redarguiti. E allora che dobbiamo fare? E allora figlioli, figlioli miei cari, se non vogliamo stare troppo tempo a tribolare in purgatorio, ci rimbocchiamo le maniche e le facciamo da soli, eventualmente. Perché il tribunale di Cristo è rigoroso. Hai fatto del bene, ne avrai premio, ne avrai gloria, e i gradi di gloria che avremo in paradiso saranno tanto maggiori quanto maggiore è il bene che abbiamo fatto, quanti più sono gli atti virtuosi che abbiamo commesso, che abbiamo compiuto. Non si sfugge da questo qui, eh. E le pene temporali nel purgatorio, eterne nell'inferno, se abbiamo peccato mortalmente e siamo morti senza esserci pentiti, saranno esattamente quelle dovute in base alla gravità e al numero dei peccati commessi. Rigorosissimo, Dio non guarda in faccia a nessuno, lì non c'è nessuno che è figlio dell'oca bianca, eh. Se sia in bene che in male. La giustizia non funziona soltanto per il male. Dice, ah, ti presenti l'immagine di Dio vendicativa, che è rigorosa, è un terrorista, tutte le frasi trite e ritrite che si dicono adesso in giro. Punto primo, non è vero, ma punto secondo, questo non funziona soltanto per il negativo, questo funziona anche per il positivo. Ed è una grande consolazione, no? Quindi, altro testo ancora di riferimento, la lettera agli ebrei. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che l'aspettano per la salvezza. Quindi gli uomini muoiono una volta sola, quindi non esistono reincarnazioni né cretinate di questo genere qui ovviamente. Dopodiché viene il giudizio. Scritto a termini chiarissimi. Quale giudizio? Il giudizio particolare. Ancora la lettera agli ebrei. Stavolta andiamo al capitolo 12. Eccolo qua. Voi vi siete invece accostati siamo ai versetti 22-23, al monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a miriadi di angeli, alla donanza festosa e all'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione. Vedete? Dio giudice di tutti, kai krite theo panton. Theo significa a Dio, krite, che viene da krites, che è proprio il giudice, giudicare è crino, verbo, panton, di tutti. Quindi altro che Dio è giudice di tutti. È giudice di... Certamente chi ricorre al suo nome, chi lo invoca, chi si affida, troverà clemenza. Chi ha cercato di riparare, espiare le proprie colpe. Amici, noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere. Non possiamo pensare che, vabbè, me la confessare e poi è finito. No, non è finito. Io l'ho sempre detto, non mi importa nulla quello che poi mi vanno a tirare dietro, ma perché l'ho detto, perché me lo invento io. O perché mi fa piacere. A me non è che fa tanto piacere questa cosa, perché pure io devo fare penitenza, per forza, se non voglio farmi troppo purgatorio. Ma cioè, noi non possiamo predicare quello che ci fa piacere o quello che non ci fa piacere. Noi ministri, noi dobbiamo predicare la verità, ciò che è certo, ciò che è sicuro. Si sentono dire in giro: ah, Dio non è un giudice, ah, Dio non castiga nessuno, ma questo è esattamente il contrario di quello che si legge nella Sacra Scrittura. Ma come si permette chi dice una cosa di questo genere a fare un'affermazione di questi? Come si permette? E nessuno che gli vada dietro potrà poi dire: ma l'ha detto quel ministro? Che me ne importa di quello che ha detto quel ministro? Controlla quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, oltre che la Sacra Scrittura, che adesso ci andremo a vedere subito. Quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che riflette l'insegnamento di alcuni concili al riguardo, che adesso andremo poi a vedere. Quindi, dopo questi testi biblici, andiamo a fare uno step al numero fondamentale del Catechismo della Chiesa Cattolica, che parla del giudizio particolare, che è il numero 1022, il quale fa riferimento, neanche troppo sottinteso, mica uno, almeno a tre, quattro forse concili. Sicuramente il Lione 2, Firenze e il Concilio di Trento. Sicuri. ma anche ci dovrebbe essere qualcosa, se non ricordo male, poi andremo a vedere dietro questi numeri del Denzinger, del Lateranense quarto, tutto concentrato in un numero, eh? E leggiamolo questo numero, 1022. Ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna. Leggo tutto, poi commento. In un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione, o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Più chiaro di così? Allora, cosa dice sto numero? Anzitutto che non vanno tutti in paradiso. Il che, insomma, anche questo non è che io ci godo, che sono contento. A me dispiace. A me piacerebbe che andassero tutti in paradiso. A chi di noi non piacerebbe? Che si augura? La dannazione non si deve augurare neanche al nostro peggior nemico. O anche se non fosse nemico, neanche la persona più malvagia del mondo, perché la dannazione è l'orrore assoluto. Però esiste. Queste tre diversificazioni della condizione post mortem, ma da chi dipendono? Ma dipendono semplicemente da quello che tu stai facendo in questa vita. Quello che Dio dà è una retribuzione, termine tecnico. Allora, che cos'è la retribuzione? Quello che ti torna indietro, no? Retribuere in latino. Ti torna indietro. Quello che semini, raccogli. Quello che hai fatto, ritrovi. Punto. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo quello che osservo, il mio giudizio è giusto. Quello che è perfettissimo del giudizio di Dio è che lui è capace di valutare con perfezione assoluta gli atti, le intenzioni, le circostanze, il background con cui noi li compiamo, che anche quello ha una sua influenza, che nessun uomo può valutare perfettamente. Ma l'effetto del giudizio è retribuzione. Quello che ti meriti avrai. Quello che ti sei meritato. E non andiamo a fare troppi, eh? Cioè, una predicazione distorta della dottrina della misericordia. Cioè, neanche si deve fare il discorso, dice, vabbè, adesso ho fatto tanti peccati, ma tanto mi confesso. E poi? Ma forse qualcuno penserà che per esempio un vizioso, supponiamo una persona che è stato un vizioso, un lussurioso che ha fatto un autotreno di peccati impuri. E che cosa succede dopo? Che succede? Cioè, noi sacerdoti, specialmente quelli che confessano, io se potessi fare a meno, confesso. E seguo la dottrina del Santo Curato d'Ars. Santo Curato d'Ars dice che i preti piangeranno quando andranno davanti al cielo se hanno occupato due funzioni, quello di parroco e quello di confessore. Perché? Perché tu c'hai la responsabilità addosso della gente. E se quelli vanno a fini male, non è che il nostro Signore qualcosa te lo chiede. Tu sei in grado, prete, parroco, confessore, di dire: io ho cercato di fare del mio meglio, sicuramente, disastro assoluto, ma almeno ci ho provato. Un prete, quando confessa, non può fare la confessione, cioè, tu lo devi ammonire un peccatore, specialmente quando capitano i casi di peccati recidivi, i viziosi, per esempio, nei peccati impuri. Tu glielo devi dire, sta attento con ogni peccato impuro che fai. Tu non hai idea di guai che passerai poi, eh? Non pensare che vieni qui, ti confessi, ti do la soluzione, è finito. Non è finito ma come niente. Non è finito. È finito nel senso che se sei pentito e quando uno comincia a essere troppo recidivo, bisogna anche verificarla questa cosa qui, ti viene restituita la grazia. Ma tu pensi che quel male che tu hai fatto... Ci siamo belli che lavati le mani? Se muori te ne vai in paradiso? Direttamente? Pensi questo? La nostra fede non si fonda sulla paura, evidentemente. La nostra fede si fonda su altro. Ma il santo curato d'Ars diceva che è comunque diritto di un fedele e dovere di un pastore anche ammonire sulla parte severa della nostra fede, sulle conseguenze di quello che facciamo. C'è una retribuzione. I lavoratori dipendenti sanno bene che la retribuzione è retribuzione. Se c'è una busta paga, è tutto quanto scritto. Hai fatto 18 ore di lavoro, quanto prendi? 6 euro all'ora? Moltiplichi 6 per 18. Punto. Hai preso 5 giorni di permesso, quanto è il permesso retribuito questo? Scritto sulla busta paga. E questo è rigorosissimo perché Dio, ripeto, non fa preferenze né accettazione di persone. Tu non ci stanno i figli del locale. Ah, ma io sono il Papa. Peggio ancora se sei il Papa. Peggio ancora. D'accordo? Perché peggio. Se il santo Curato d'Ars diceva, i preti piangeranno davanti a Dio. Se sono stati parroci o confessori. E se sono stati vescovi? E se sono stati cardinali? Se sono stati papi? Qui si sente dire che nella Chiesa qualcuno dice che c'è il cardinalismo. Bah. Bah. Io se potessi evitare di fare il parroco e il confessore, lo dico, io lo farei molto molto volentieri, perché ti prendono nel cuore il senso di responsabilità. Io certe volte mi trovo in situazioni difficili, perché se dici una cosa, corri il rischio che te si rivoltano contro e che succede il finimondo. Ma se non la dico, io poi quando sono morto, il nostro Signore viene da me e mi dice: oh, ma che ti sono messo a farla? Tu il peccatore lo devi ammonire, cioè io non, per me ammonire il peccatore non è un'opera di misericordia spirituale, come per voi nei confronti dei vostri simili. Perché per una persona costituita in autorità, ammonire un peccatore è un dovere. E non lo posso non fare. Se no passi qua pure io, capite? Giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo. Poi vedremo, non oggi sicuramente, perché adesso ci andiamo a fare un bel giro attraverso tutti quanti questi riferimenti che sono stati fatti. E qui è un giro nei concili. Allora. Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale, quindi la nostra anima è immortale, il nostro corpo si decomporrà e acquisirà lo status di cadavere da un certo punto in poi. Ma l'anima, noi, cioè una volta che c'è l'essere, questo non dimenticatelo mai, figlioli miei cari, una volta che c'è l'essere, se Dio dà l'essere a qualcosa, non glielo toglierà mai più. Ecco perché i demoni continuano ad esistere. Qualunque cosa succede, l'essere non si tocca. Se Dio te l'ha dato, non ti sarà mai toccato. Questo è un concetto. Capire bene questa cosa è fondamentale. Facciamo sempre come al solito le intercomunicazioni delle catechesi, anche per capire, per esempio, quella rivelazione del tutto peculiare che viene fatta a tenere amato dell'eternità creato della quinta dimensione. Se uno non capisce che l'essere che Dio ci ha dato semplicemente è permane e non può essere tolto, non capirà mai mai un H di questa dimensione. Allora, ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, perché lo passerà attraverso una purificazione. E qui si aprono una serie di parentesi. La purificazione. Allora, il primo è il Concilio di Lione. Tutti quanti dicono Lione, ma Lione in francese a casa mia si pronuncia Lyon, quindi è meglio essere sempre fedeli alle lingue quando si parlano altre lingue, non fare le italianizzazioni. Quindi il concilio è di Lione II. Cosa dice nei numeri del Denzinger 857-858? Le anime di coloro che dopo aver ricevuto il santo battesimo non sono incorse mai in nessuna macchia di peccato. E anche quelle che, dopo aver contratto la macchia del peccato, secondo quello che è stato detto sopra, sono state purificate, sia quando erano ancora nei corpi, sia quando di questi erano state spogliate, subito sono accolte in cielo. Quindi chi ha l'aspirazione di andare direttamente in paradiso, che sapeste quanti mi dicono, ah io aspiro ad andare direttamente in paradiso, dico sì. Buona penitenza, figliolo caro. Pure se sei un bravo ragazzo, perché in paradiso non si entra, dicono i maestri di spirito, nemmeno per una imperfezione involontaria non purificata. Capite che significano imperfezioni involontarie? Un'imperfezione involontaria, tanto per fare un esempio, è che mi trovo dinanzi ad una persona, ok? Potrei fare una piccola delicatezza, una piccola manifestazione di carità e non la faccio. Non perché dico, capisco, non la voglio fare e quindi non la faccio. La potrei fare, ma, non, ma questo non gliela voglio fare. Questa è un'imperfezione volontaria. No, un'imperfezione involontaria. O che mi scappa, per esempio, no? Una rispostina, come dire, non perfetta. Non dico sgarbata, che già andiamo sul, oppure pungente, ma non perfetta, no? Potevo essere più caritatevole nel dare quella risposta. Cioè, questo deve essere, poco, ma deve essere purificato pure questo. Queste cose le devo dire. Non mi diverto affatto a dirle, non mi piacciono, se uno lo vuole sapere. E non piacciono neanche a me, lo so che non piacciono a chi mi ascolta, ma non piacciono neanche a me. Ma questa è la verità. Noi non abbiamo nessun potere contro la verità, nessuno, ma per la verità, dice San Paolo. Poi continua, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale o con il solo peccato originale, attenzione! Subito discendono all'inferno anche se punite con pene differenti. Qui capite subito che questi punti li riprenderemo quando parliamo del paradiso, dell'inferno. Attenzione, qui distingue quelli che muoiono col peccato mortale e col peccato solo originale e vanno all'inferno, dice, per essere puniti con pene differenti. Questo è uno dei fondamenti dottrinali dell'esistenza del limbo. E questo è un concilio ecumenico, ok? Dove è contenuta una professione di fede. Non si può prendere questa roba qui, cioè quando un concilio ecumenico è peraltro dogmatico, tu non lo puoi prendere e buttarlo via, ignorando quello che ha detto. Puoi fare tutti i ragionamenti teologici che ti pare, tutti quanti i progressismi e gli aggiornamenti che ti pare, ma questo sta scritto qui. Ancora prima, quando parla della sorte dei defunti, 856, dice, se coloro che fanno sinceramente penitenza sono deceduti nella carità, per di aver pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse. Le loro anime sono purificate dopo la morte, così come c'è chiaramente esposto frate Giovanni, ordine dei frati minori, con pene che lavano e purificano. E a sollevarli da pene di tale genere, cominciamo a prepararci al mese di novembre, giovano loro i suffragi dei fedeli viventi, vale a dire i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine e gli altri esercizi di parità. Di pietà che sono soliti farsi secondo l'indicazione della Chiesa da dei fedeli a vantaggio di altri fedeli. Non possiamo dire e predicare nient'altro che questo. In paradiso, qui gente, va a funerale di gente che è una vita che non ha mai messo piede in chiesa, ha adesso l'animo del nostro caro che è tornata alla casa del padre, è volata addirittura, volata al cielo. L'espressione volare al cielo, io lo dico anche, mi dispiace a qualche follower, qualcuno mi scrive una mail, mi fa: ah, mia madre è volata al cielo l'altro giorno. Dico, tu non ti rendi conto, ma che ti è volata al cielo? Scusami un attimo. Volato al cielo è un modo di dire, a parte il fatto che se lo riserviamo a nostro Signore è meglio, che lo sa lui che vola al cielo, noi non possiamo essere sicuri. Ma quando muore un santo si dice che vola dal cielo. Un martire. Io voglio sperare che tua mamma e tuo papà fossero dei bravi cristiani, per carità, ma dire volato al cielo è dire una cosa grossa. Chi sei tu per dire una cosa di questo genere? Cioè, noi non ci pensiamo, no? Ma tu chi sei per dire una cosa di questo genere? Che sei, il Padre Eterno? Io non mi stancherò mai di ripetere, il giorno della morte, cosa che l'espressione usatela per scrivere i necrologi e per parlare, ha reso l'anima a Dio. Per farci cosa? Per subire il giudizio particolare. Perché quando noi moriamo, cosa succede? Succede che noi ci troviamo e Dio ci chiede dell'anima che io ti ho dato, bellissima, meravigliosa, con i suoi talenti, con i suoi doni e con la grazia, che ci hai fatto? L'hai curata? L'hai trasformata in un giardino? L'hai arricchita di perle preziose? O me porti una schifezza davanti? Te la sei messa sotto i piedi? L'hai deturpata? L'hai resa brutta? Hai sprecato una vita, non hai fatto quello che voleva, hai buttato al mare il mio progetto su di te. Cioè, questo succede, eh? Io adesso lo sto discorrendo, poi vedremo che un giudizio particolare, con i tempi che ci sono, dall'altra, dura un picco secondo forse, d'accordo? Un nanosecondo. È chiaro che noi, fino a quando siamo in questo mondo, per capirci, dobbiamo esternare, dobbiamo esprimere. Vogliamo sentire un altro, il Concilio di Firenze. In questi concili, Lione e Firenze, si parla di questi, perché sono i due concili in cui ci furono dei tentativi di riconciliazione con il mondo dell'ortodossia. E gli ortodossi al purgatorio ci credono poco. Ecco perché tutte quante queste affermazioni, no? Ancora, anche qui, al Concilio di Firenze, sapete che il Concilio di Lione è stato nel 1274. La storia è che è stato un concilio un po' particolare perché San Tommaso d'Aquino è morto mentre andava al Concilio di Lione. Perché il Concilio di Lione, il documento che ho letto, porta la data del 6 luglio del 1274 e San Tommaso è morto qui vicino a dove sto io, a Fossanova, il 7 marzo del 1274, proprio mentre stava recandosi a Lyon per il concilio. Eppure San Bonaventura stava recandosi a Lyon per il concilio, un francescano, due colossi, morto pure lui per il concilio proprio. Vabbè, è tutta volontà di Dio, per carità, no? Però insomma, ci siamo persi un concilio. Immagina se a quel concilio c'erano San Tommaso e San Bonaventura, insomma, che sarebbe uscito fuori, no? Però purtroppo non c'erano, cioè, non ci sono stati. Concilio di Firenze. Qui siamo molto più avanti, siamo nel 1439, siamo quasi 2 secoli avanti. Ancora sezioni riguardanti la sorte dei defunti. Denzinger 1304, 305 e 306. Leggo, questa è la Vox Magisterii Ecclesiae. Quindi, quando si leggono queste cose, bisogna metterci in ginocchio. Inoltre definiamo che le anime dei veri penitenti, item si vere penitentes in Dei caritate decesserint, in latino, morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso, guardate il linguaggio molto simile, sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio. Attenzione, non le anime dei penitenti, cioè quelle che non hanno fatto ancora abbastanza, quindi che non sono riusciti a purificarsi del tutto. Mediante suffragi, sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio e che riceveranno un sollievo da queste pene, mediante suffragi dei fedeli viventi, come il sacrificio della messa, le preghiere, le elemosine e le altre pratiche di pietà che i fedeli sono soliti offrire per gli altri fedeli secondo disposizione della Chiesa. Quanto alle anime di coloro che dopo il battesimo non si sono macchiate di nessuna colpa, e anche riguardo a quelle che dopo aver commesso il peccato sono state purificate o in questa vita o dopo la morte nel modo sopra descritto, quindi le varie modalità con cui si va in paradiso, vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente uno Dio, uno e trino, come egli è. Attenzione! Ma alcune in modo più perfetto di altre a seconda della diversità dei meriti. Capito? Et intueri, clare, ipsum, deum trinum, et unum sicuti est, promeritorum tamen diversitate alium, alio perfectius. Non c'è possibilità di equivocare. Quindi che significa? Quanto vuoi godere in cielo? Lo dico in continuazione. Cioè, noi esseri, abbiamo solo questa vita. Capito? Ci abbiamo gli attimi presenti che scorrono. È da pazzi furiosi, sciagurati, fuori di testa, proprio, cioè, folli. Non pensare mai a queste cose qui. Una volta che sei morto, non c'è più la fagna, voglia di la misericordia. Cioè, se tu hai raggiunto un grado di gloria bassissimo, quello te lo tieni per tutta l'eternità, non cambia dopo. Se t'ha da fare purgatorio fino al giudizio universale, c'è tempo prima che arriva la morte per cercare di abbreviare un pochino i termini. Dopodiché, se qualcuno te fa dire qualche messa, la resti fino al giudizio universale. Eh? 1306, invece le anime di quelli che muoiono in stato di peccato mortale attuale, anche qui o con il solo peccato originale, perché col peccato originale non si vede Dio. E qui sta da parlare con tutti quelli che qualcuno chiama non a torto con un certo tono dispregiativo teologastri. Sta scritto, e l'ha detto nostro Signore Gesù Cristo, se non si rinasce da acqua e da spirito, non si entra nel regno di Dio. Giovanni 3, discorso con Nicodemo. Chi non rinasce da acqua e da spirito non può vedere il regno di Dio. E se uno ha il peccato originale, che non è rinato da acqua e da spirito, non ci va in paradiso, non ci può andare, non subito, sicuramente. È inutile che fai discorsi, te inventi chissà che cosa. Scendono immediatamente all'inferno anche qui per essere puniti con pene diverse. Avremo modo ampiamente di riparlare di queste cose più avanti. Poi c'è il Concilio di Trento. Danziger 1820. Tutto quanto contenuto in questo passaggio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il decreto sul purgatorio, breve breve, perché pure luterani, ma guarda un po', come mai che tutti quanti, sti eretici, bisogna farci sempre queste domande, no? Perché se la prendono tutti quanti col purgatorio? Sapete perché, no? Ci arriviamo, perché il purgatorio è quella realtà ultraterrena che maggiormente ci provoca qui sulla terra. Perché se esiste il purgatorio e non è una sala d'aspetto, mi ricordo una catechesi storica che feci forse a suo tempo, che significa? Significa che se te la vuoi risparmiare, tu devi fare penitenza qui. E guardate che non c'è niente da cui il diavolo ci tiene più lontano che dalla penitenza. Le opere penitenziali sono tre: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. E ciò che da questi dipende, perché per preghiera si intendono anche i sacramenti, per il digiuno si intendono tutte le mortificazioni dei sensi, volontarie e involontarie, scelte da noi o che ci manda nostro Signore. E per l'elemosina si intendono tutte quante le opere di misericordia spirituale e corporale. Se non le famo, ha voglia purgatorio. Poiché la Chiesa Cattolica è istruita dallo Spirito Santo in conformità alle sacre scritture e all'antica tradizione, sto leggendo il decreto sul Purgatorio del Concilio di Trento, Danziger 1820, ha insegnato che il Purgatorio esiste in conformità alle sacre scritture e all'antica tradizione, nei sacri concili e più di recente in questo Concilio Ecumenico, ha insegnato che il Purgatorio esiste. E che le anime ivi trattenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e soprattutto col santo sacrificio dell'altare. Quando parleremo del purgatorio, santo sacrificio dell'altare, e ricordate, se vuoi aiutare qualcuno, non fate le messe minestroni, non le devono fare i preti, ma non devono farle neanche i laici. Perché c'è gente che quando chiede una messa, per togliersi il pensiero, comincia a fare Francesco, Nicola, Franco e Benedetto. Un sacerdote non si può rifiutare di accogliere un'intenzione di questo genere. Ma non è una cosa buona. Perché una messa la fai dire per Francesco, una messa la fai dire per Nicola, una messa la fai dire per Loredana e la messa la fai dire per Benedetto. C'era un mio parente che aveva a sua volta un parente, uno zio sacerdote. Ovviamente negli anni, e mi raccontava che questo suo zio sacerdote girava con un taccuino, allora non c'erano gli smartphone per prendere le note con le intenzioni di messe, e c'aveva il calendario dentro il suo taccuino. E lui c'aveva la sua pennetta. Quando gli chiedevano una messa, lui prendeva un nome, uno. Voglio la messa il 18 novembre. Piastro, libriccino, c'è già Francesco. La messa te la posso il 18 novembre. Chiuso il discorso. C'era un motivo per cui facevano così. Poi ne parleremo quando parliamo del purgatorio e dei suffragi più a lungo. Adesso sono soltanto dei per non uscire fuori tema. Allora, soprattutto col santo sacrificio dell'altare, il Santo Sinodo prescrive ai vescovi di vigilare con zelo, ai vescovi di vigilare con zelo, perché spetta a loro fare queste cose. Prima e più che a un prete o a un parroco, molto prima e molto di più. Perché la sana dottrina sul purgatorio trasmessa dai santi padri e dai sacri concili sia creduta, conservata, insegnata e predicata ovunque. I vescovi devono fare questo, devono fare. Un vescovo è maestro, oltre che sommo sacerdote e rappresentante di Cristo capo. Guai a lui se non fa questo. Guai! Nelle prediche rivolte al popolo meno istruito si eviteranno le questioni più difficili e più sottili, che non portano all'edificazione. E quasi mai all'aumento della pietà. Si Così pure non dovranno permettere la divulgazione e la discussione di punti incerti o che possano sembrare falsi. Proibiranno inoltre come scandali e ostacoli per i fedeli quelle questioni che soddisfano solo una certa curiosità e superstizione e sanno di speculazione. Questo è il Concilio di Trento. Ancora, Denzinger 1000 e 1001, queste sono tutte tante citazioni tra parentesi o in nota del numero del Catechismo della Chiesa Cattolica. È bene andare a leggere per esteso. Oh, no, questo non è il Lateranense guasto. Tutto questo è la bolla di Papa Benedetto XII, Benedictus Deus, stupenda anche questa. Dice 1000, 1001 e 1002, 1000 è lunghissimo però. La visione beatifica di Dio, questa la riprenderemo sul paradiso, accenno soltanto qualcosa. Ah, questa è stupenda proprio, eh. Con questa Costituzione Apostolica che avrà vigore in perpetuo. Attenzione, noi in forza dell'autorità apostolica definiamo quando un Papa parla in questi termini. Abbiamo bello che chiuso, eh. In forza dell'autorità apostolica definimus, se un Papa si esprime in questi termini, abbiamo chiuso. Non può sorgere nessun papa che dice: ah, quello che ha detto Benedetto XII no, non mi piace più, non lo può fare neanche un altro papa. Leggo soltanto il prologo perché poi leggo: secondo la generale disposizione di Dio, le anime di tutti i santi che hanno lasciato questo mondo prima della passione di nostro Signore Gesù Cristo e quelle dei santi apostoli, dei martiri, dei confessori, e nei quali non ci fu più nulla da purificare quando morirono, non ci sarà nemmeno quando moriranno, oppure qualora, insomma, tutte queste cose qui godranno pienamente della stessa essenza divina. E così, in forza di tale visione e godimento, le anime di coloro che sono ormai morti saranno veramente beate e avranno la vita e la pace eterna. E che tale visione dell'essenza divina e il suo godimento fa cessare gli atti di fede e di speranza, 1001. E inoltre definiamo, sto andando veramente, lo sto mettendo in mezzo a una strada, ma tanto lo riprenderemo, che secondo la generale disposizione di Dio, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, attenzione al termine, subito dopo la loro morte discendono all'inferno, dove sono tormentate con supplizi infernali, e che tuttavia nel giorno del giudizio tutti gli uomini con i loro corpi compariranno davanti al Tribunale di Cristo. Questo è proprio un trattato di escatologia, questa bolla. Altro riferimento, vorrei concludere, così finiamo almeno questo punto, è al Denzinger 990, un'altra bolla, questa volta di Giovanni XXII. Che scrive a proposito della beatitudine dei santi, a proposito di quelle cose che sulle anime purificate separate dai corpi, se cioè prima della riassunzione dei corpi e si vedano la divina essenza con quella visione che l'Apostolo chiama faccia a faccia, spesso sono state dette sia da parte nostra sia da non pochi altri in nostra presenza, citando la Sacra Scrittura e detti originali dei santi, altrimenti ragionando, non accada che siano introdotte nelle orecchie dei fedeli cose diverse da quelle che da noi sono state dette e intese. Ecco che noi dichiariamo nel contesto del presente scritto, così come segue il nostro pensiero, che riguardo a queste cose noi abbiamo e abbiamo avuto in comunione con la Santa Chiesa Cattolica. E quindi parla delle anime che vanno in paradiso, che vanno in purgatorio, no, parla delle anime che vanno in paradiso. Ok, soltanto di queste, subito dopo. Oh, quindi chiudo. Che è una verità di fede fondamentale dell'escatologia. Lasciato il corpo, l'anima incontra immediatamente il Cristo glorificato nel ruolo di giudice. Questo ci deve oggi rimanere. Giudice con una sorte che può essere questa triplice sorte. La prossima volta approfondiremo un pochino meglio che cos'è il giudizio particolare e come è stato anche inteso nel corso della tradizione patristica e scolastica. Una santa notte a chi ha seguito la diretta, arrivederci a tutti coloro che sentiranno la registrazione e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.